Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure ci seguite su Twitter @ tutti convocati. Insieme fino alle 19 per raccontare una domenica di sport che non ha fatto mancare davvero nulla: emozioni, ma anche un nuovo episodio di cori discriminatori che, se sentiti e riportati nei mille referti che coronano una partita di calcio, potrebbe portare a conseguenze pesantissime per l'Inter. Vi faremo sentire tutto, ne parleremo. Adesso però la nostra prima pagina. Tutti ad aspettare la notte di San Siro, da una parte Balotelli, dall'altra Higuain, e guai ai vinti perché davanti corrono tutti. Eppure il pomeriggio non è passato invano. La Juventus, ad esempio, vince come previsto, ma non nel modo in cui era prevedibile. Ora Alfredson, pallone sul secondo palo, Mora spa la torre, poi calciatore, segna il gol dell'1-0. Al cross Vidal per Llorente! Meno di 10 minuti per ribaltare il proprio destino, eppure viene il sospetto che la Juventus sia meno affamata, più vulnerabile. Poi certo, Tevez si conferma, Llorente firma la prima e la Juve vince. Davanti a tutti c'è la Roma, 119 giorni dopo quella Coppa Italia, spartiacque tra passato e futuro, futuro che poi è adesso, oggi 12 punti in 4 partite, 9 gol fatti, 10 anzi, uno solo subito. Totti battuto velocemente il corner, palla sul secondo palo, Balzaretti, questa volta trova il gol e sblocca il derby, al 18esimo l'1-0 della Roma. Guai a perdere questa sera, soprattutto per il Milan, perché corre anche la Fiorentina e l'Inter vola. Chissà se Moratti non prova già un po' di nostalgia. I suoi ne fanno 7, Milito 2 a 7 mesi dal crack al ginocchio. Ancora un grande numero, Milito! Il principe è tornato! 5-0 per l'Inter! Una festa per la squadra nerazzurra! E poi c'è la follia di Reggio Emilia. Dopo una settimana a parlare di cori, di squalifiche, di curve chiuse, di tolleranza zero, Sassuolo-Inter, minuto 38 del primo tempo. Aspettiamo Milan-Napoli allora e salutiamo il solito copione a quattro ruote della domenica pomeriggio. A Singapore primo Vettel, secondo Alonso, terzo Raikkonen. Ci sono due ferraristi di domani sul podio, però il mondiale è ormai volato via. Siamo con l'Italia del 2014, ma quello che è successo oggi a Weber potrebbe capitare domenica prossima a Vettel, quindi mai dire mai. Tutti convocati. La classifica ve la leggo: Roma 12 punti, Inter, Juventus, Fiorentina 10, Napoli 9 in attesa della sfida di San Siro di questa sera, e poi giù giù Lazio 6, Milan 4. Se il Milan perde si complica davvero la vita. Avete sentito i rumori di Reggio Emilia? Sono cori provenienti dagli ultra interisti, secondo alcune testimonianze, lo scrive ad esempio Andrea Sorrentino su Repubblica.it. Ebbene, se eravate allo stadio, scriveteci 349-238-6666 oppure telefonateci 800-24-0024. Io lo dico, settimana scorsa vi abbiamo preannunciato che sarebbe stata chiusa la curva nord dell'Inter per quello che era accaduto il sabato sera contro la Juventus, i fatti ci hanno dato ragione. Oggi vi diciamo che, norme alla mano, se quei cori sono degli ultra dell'Inter e sono scritti in qualunque referto, portano dritti dritti alla chiusura di San Siro. 5 ottobre, ore 20:45, Inter-Roma, San Siro chiuso. Diteci la vostra, 800-24-00-24. Buon pomeriggio Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Io purtroppo sono dovuto ripartire da lì, evidentemente non è bastata una settimana a spiegare che cosa si rischiava, che cosa accadeva, non è servito a nulla, poi cercheremo di approfondire e di capire che cosa è successo effettivamente e che cosa accadrà. È quasi fatale Giovanni, non ti puoi aspettare niente di diverso, no? Anzi, si sta verificando quella che è, l'ho detto molte volte, la mia più grande paura, cioè quello che questa normativa in un paese di distorsione come il nostro venga utilizzato come ulteriore strumento di pressione nei confronti delle società, perché è così che va, no? L'ho visto molte volte in varie forme dalle contestazioni alle squadre, contestazioni ai giocatori, gli ultra che chiedono di parlare con i giocatori e poi insomma l'abbiamo visto, è un film, già noto, quindi il problema sarà quello di evitare che le società possano subire ulteriori ricatti da queste frange. Io non credo, non mi piace quando mi dicono ma sono 10, sono 15, sono 20, sono tanti, sono troppi e purtroppo si offre loro uno strumento, anzi un'arma nei confronti dei club, un'arma che può tradursi, che ne so, in favori, biglietti, trasferte, insomma le solite cose, no? Sono sì, quello... 30 anni che facciamo i conti con queste puttanate. Quello che è successo oggi a Reggio Emilia l'avete sentito, assurdo a prescindere da quale sia la firma, se poi fossero davvero gli ultra dell'Inter, assolutamente una follia, anche semplicemente per il danno che recano a se stessi e all'Inter. Che Juventus hai visto, Carlo? Sei reduce da Juventus Verona? Ma la Juventus così è così, a dirti la verità. Anche a me non è piaciuta tantissimo, no, fragile, fragile e vulnerabile. Sì, è vero, ma poi per lunghi tratti del primo tempo mi ha ricordato, te lo ricorderai bene anche tu, una squadra fortissima che ha fatto epoca, cioè il Milan di Sacchi verso gennaio, quando la benzina era poca. Le gambe non giravano bene, quindi ritmi molto bassi, grande possesso di palla, però poca pericolosità e tutto sommato il Verona che ha giocato una onestissima partita, anzi una buona partita, ovviamente in chiave difensiva, le sue pallette gol le ha costruite, quindi non una Juventus irresistibile. Oggi però si è vista la differenza, no? tra l'avere un top player, torno a usare questa espressione di proposito, e non averlo, perché Carlos Tevez è il top player che la Juventus mancava. Probabilmente un anno fa avrebbe fatto ancora più fatica a vincere una partita come questa. Oggi Tevez ha fatto e disfatto qualunque cosa. Poi c'è stato il primo Llorente dell'anno. Che voto diamo al debutto di Fernando Llorente? Oh, un 6,5, dai, ha fatto la sua onesta partita, centravanti molto vintage, molto anni 80. Di quelli che fa sportellati in area, due discreti piedi, buon colpo di testa, un lottatore. Comunque quello che l'abbiamo detto, l'hai detto anche molte volte, no? Il giocatore che la Juventus mancava è quello che può essere l'arma tattica in grado di cambiare le cose. È stato inserito a furor di popolo, a furor di polemica, no? Oggi ha giocato dal primo minuto, ha giocato una settantina di minuti, ora non ricordo bene, comunque fino al finale di partita per poi lasciare il campo a Vucinic, ha fatto il suo, compreso un gran bel gol e un altro colpo di testa l'avrei visto con la palla che era lì a ridosso della linea bianca, ma pare non l'avesse superata. Comunque, sì, detto Carlo, che la Juventus ha fatto collezione di pali e traverse, che una volta andata sotto ci ha messo 10 minuti a ribaltare la partita. Resta però, mi sembra, la sintesi di questa fase della stagione per la squadra di Conte, che ha quasi sempre bisogno di una sberla per svegliarsi, cosa che non accadeva l'anno scorso. Grazie Carlo. A te Giovanni, buongiorno a tutti. Grazie a Carlo Genta. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Diteci anche cosa ne pensate della Juventus di Milan-Napoli questa sera. Partita bellissima. Poi è inutile che ve la prendete con me per la questione dei cori contro i napoletani. Noi cerchiamo di spiegarvi che cosa è successo e che cosa può succedere. Qui non facciamo il tifo per nessuno. 800 24 00 24 traffico. Un derby non si gioca, un derby si vince. Tutti convocati. Juventus Verona 2-1, ma il mio Verona non si è lasciato sopraffare. Claudio da Chiampo, provincia di Vicenza. Ha ragione Claudio a essere orgoglioso della partita del Verona oggi allo Juventus Stadium. Alla fine il risultato ci sta tutto, perché l'ho detto, la Juventus ha fatto collezione di pali e traverse, ha meritato di vincere in alcuni momenti, ha davvero cinto d'assedio il Verona. Però quella sensazione di un pizzico di vulnerabilità in questo inizio di stagione è rimasto. Era successo anche sabato scorso a San Siro contro l'Inter, dove per svegliarsi, pareggiare, anche rischiare di vincere la partita, la squadra di Conte aveva dovuto prima ricevere lo schiaffone del gol di Cardi. A proposito di Conte, sta per parlare ai microfoni di Sky Sport 1, allora sentiamolo. È un momento che sicuramente non ci dice bene da un punto di vista degli episodi, perché l'unica volta che il Verona si è affacciato in area nostra, praticamente ha fatto gol. E noi siamo stati bravi a reagire subito, a trovare prima il pareggio con Tevez e poi con il vantaggio con Llorente. Abbiamo continuato poi a giocare, a cercare il gol, però un'altra traversa, altre situazioni che per poco non sono state sfruttate, però bene i tre punti. Abbiamo fatto anche oggi una discreta rotazione, una buona rotazione per cercare di dare minutaggi un po' a tutti. È una necessità impellente quella comunque di applicare il turnover. Comunque non era facile, perché il Verona erano praticamente 10 giocatori in 20 metri a difendere l'area, in più Jorginho che ha seguito Pirlo praticamente, anche se Pirlo si fosse permesso di andare un attimo in bagno. Sì, ha ragione Conte, Verona che era chiuso tutto dietro, era racchiuso in pochi metri e con questo ha certamente reso difficile la vita alla Juventus. Resta però che nel primo tempo il Verona alcune situazioni pericolose è stato capace di crearle nel cuore dell'area della Juventus, ed è questa una scena alla quale non siamo sinceramente abituati, perché non capita, perché la Juventus ci aveva abituato a essere capace a tenere in mano la partita dal primo al 90° minuto, invece in questo momento non è così. Comunque sia, Juventus che è là davanti insieme a tutti. Andiamo a Roma, Guglielmo Timpano. Ciao Guglielmo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Roma capolista, 12 punti in 4 partite, 10 gol fatti, 1 subito. 119 giorni dopo quella sconfitta nella finale del derby di Coppa Italia, che lo abbiamo detto ha rappresentato un po' lo spartiacque tra il passato e il futuro, solo che il futuro è già oggi. Io te lo dico personalmente, non mi aspettavo un avvio così di stagione della Roma. Beh, ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa, certamente, e dicevi bene sottolineando come sia stato spartiacque il derby del 26 maggio, così come potrebbe esserlo anche la partita di oggi, visto che la Roma ha affrontato il secondo test probante di questa stagione. Dopo le partite contro il Livorno e contro il Verona sono arrivate quelle col Parma in trasferta e questo derby, un derby che coinvolgo anche Gianluca Piacentini del Corriere della Sera, che rappresenta tanto per questa città e che rappresenta per la Roma primo posto soprattutto. Sì, è un derby che non cancella quello del 26 maggio, perché tanto era questo, è stato questo leitmotiv di tutta la settimana e anche del modo di tifare sugli spalti. Abbiamo visto anche i tifosi della Lazio che hanno fatto sempre giustamente riferimento a quella partita, quelli della Roma che invece quella partita hanno provato a cancellarla dalla memoria e stanno provando a portarsi al futuro. Ecco, questa è una vittoria che è importante chiaramente perché ottenuta contro la Lazio, ma soprattutto perché consente alla Roma di dare continuità ad un inizio di campionato che probabilmente in pochi si aspettavano. 4 vittorie consecutive, andiamo a memoria, sicuramente non è successo nell'anno dello scudetto, il terzo di Capello, ma faccio fatica a ricordare l'ultima volta che la Roma è partita con 4 vittorie consecutive, quindi credo che sia questo l'aspetto più importante, oltre a liberare la squadra da un blocco psicologico che inevitabilmente c'è stato e c'era contro la Lazio. L'abbiamo visto forse anche nel primo tempo, che è stato a mio avviso molto brutto, un primo tempo brutto dal punto di vista proprio della qualità del gioco, con due squadre contratte, mentre nel secondo tempo a mio avviso è emersa la maggiore qualità individuale di alcuni calciatori della Roma e forse anche un po' di stanchezza da parte di quelli della Lazio. Sì, tra l'altro il calo fisico della Lazio è stato anche in qualche modo previsto da mister Rudy Garcia. Un dato statistico curioso, chiaramente, avete ricordato i 10 gol fatti, uno solo subito dalla squadra giallorossa, Rudy Garcia. Se le partite finissero al 45° minuto di gioco, la Roma avrebbe nei primi 4 turni di campionato 3 punti, perché poi ha pareggiato tutti i primi tempi, tranne quello di Parma, dove era sotto 1-0. Allora io ti aggiungo un altro dato statistico a quello che hai citato tu. Dei 10 gol della Roma, 9 gol sono venuti dopo che Garcia ha effettuato almeno una sostituzione. Cioè con l'11 iniziale la Roma ha segnato solamente il gol di Florenzi, quello del pareggio. Gli altri 9 gol sono arrivati quando la Roma aveva già cambiato un uomo. Questo da una parte significa, a mio avviso, che la Roma ha una rosa più ampia di quello che potevamo immaginare, ma Garcia probabilmente studia molto bene le partite, studia bene l'avversario. Tu hai fatto riferimento alle sue parole sul fatto che la Lazio sarebbe calata. Ecco, secondo me oggi lui è partito per cercare di gestire la partita nel primo tempo e cercare di colpire quando sapeva che poteva farlo, e questo denota chiaramente una grande intelligenza e preparazione da parte sua. Ecco Guglielmo, mi piacerebbe capire qual è adesso lo stato d'animo dell'ambiente a Roma, ambiente tradizionalmente molto facile ad entusiasmarsi davanti a risultati anche come questo, ma che spesso ha rappresentato poi un limite nel corso delle stagioni. Tante volte Capello questa cosa l'ha sottolineata. Mi sembra che Rudy Garcia abbia il low profile giusto per provare a cercare di tenere tutti con i piedi per terra, però volevo un po' capire da oggi in che dimensione entra la Roma. Allora, giro subito la domanda a Gianluca Piacentini del Corriere della Sera. Personalmente do questo tipo di interpretazione, ed è un'interpretazione un po' zero-zerista, e chiedo scusa anticipatamente. Lo stato d'animo della Roma, intesa come squadra, per quanto mi riguarda, lo vedremo nell'infrasettimanale di mercoledì, perché a 3 giorni scarsi, tra l'altro, dalla Tre Cittadina, se la Roma scenderà in campo con la concentrazione giusta, vuol dire che veramente qualcosa è cambiato rispetto alla Roma che descriveva anche Fabio Capello. Non so se Gianluca Piacentini è d'accordo con me, con che stato d'animo adesso la Roma va avanti, troppo entusiasmo o riuscirà a tenere coi piedi per terra la squadra, Rudy Garcia? Io credo che ci sarà il giusto entusiasmo. Io penso la Roma già in queste prime 4 giornate abbia fatto vedere un salto di qualità dal punto di vista della mentalità, dal punto di vista della gestione delle partite e dei risultati. Quindi rispetto al passato questo è un grande passo in avanti. Noi abbiamo visto la Roma anche a Parma reagire, trovare il pareggio e poi riuscire a vincere la partita. Abbiamo visto la Roma contro il Livorno e contro il Verona, che sul momento ci sono sembrate vittorie facili, se vogliamo, ma poi i risultati che stanno facendo queste due squadre poi dicono il contrario. Anche oggi il Verona a Torino con la Juventus ha fatto la sua bella figura, quindi il salto di qualità io penso che ci sia già stato. L'entusiasmo penso che sia fisiologico dopo 4 vittorie consecutive, ma è giusto anche che ci sia. La bravura di Garcia dovrà essere quella di riuscire ad isolare la squadra dall'ambiente, dai fattori esterni, e continuare, se vogliamo, un po' a fare il pompiere come ha fatto in questi giorni. Per chiudere Guglielmo in un flash, mi sembra che dal punto di vista dell'ordine pubblico sia andata bene. Intanto però ti fermo, c'è Tevez a Sky Sport 1. Giocano un po' a difendersi e questo complica le cose. Il gol è stato sicuramente importante. Stiamo lavorando duramente con Conte, però dobbiamo avere pazienza. Sappiamo che la squadra si sta formando e c'è una grande aspettativa su di noi. Sappiamo che siamo la Juve. Questo Tevez, siamo la Juve, c'è grande aspettativa, c'è anche un Tevez che sta viaggiando davvero con prestazioni straordinarie. Per chiudere da Roma, Guglielmo, mi sembra che dal punto di vista dell'ordine pubblico fin qui sia andato tutto bene. 17-26, ovviamente incrociamo le dita. Sì, incrociamo le dita, è andato tutto assolutamente bene, anzi, notizia che vi do di colore, i tifosi della Lazio, avete visto tutti dai monitor e dai teleschermi, sono entrati con una decina di minuti abbondanti di ritardo rispetto al fischio d'inizio. Questo perché, per ricordare sempre quel 26 maggio, c'era uno striscione che recitava più o meno, vado a memoria, ops, avevo dimenticato, c'è il Memorial Derby, finisco la birra ed entro. È quello che hanno fatto, tanto per dare la dimostrazione, prima ancora che iniziasse la partita, che questa è una partita che contava poco rispetto a quella che ha segnato la Coppa del 26 maggio. Sì, cose da grande raccordo anulare. Poi adesso c'è una classifica che dice Roma 12, la Lazio ne ha metà di punti, credo, rispetto a quella dei giallorossi. Grazie Guglielmo. A voi. Grazie Guglielmo Timpano. A proposito di volare sulle ali dell'entusiasmo, il 7-0 dell'Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in quella che potrebbe essere stata l'ultima di Moratti da presidente dell'Inter, lo sentiamo Mazzarri? Ambizioni noi ce l'abbiamo sempre, chi è stato il mio giocatore potrebbe dirlo in qualunque momento. Io cerco di inculcare dal primo minuto in cui mi affidano una squadra la mentalità che non c'è, di non accontentarsi mai, che si può sempre migliorare anche a 30 anni, che se fino a quel momento non si è fatto delle cose si possono fare, quindi noi non ci accontentiamo mai, poi obiettivi e altre cose spettano a voi, a noi non ci interessa, noi bisogna concentrarsi come stiamo facendo partita dopo partita per cercare di dare il meglio di noi stessi. Oggi l'abbiamo fatto, precedenza per il momento l'abbiamo fatto, bisogna continuare fino alla fine. E oggi l'Inter saluta anche il ritorno in partita e poi al gol di Milito, doppietta, 7 mesi dopo il crack al ginocchio. Era febbraio dell'anno scorso, gara che dal punto di vista del risultato fa sicuramente poco testo, perché il Sassuolo ha mollato completamente, soprattutto nel secondo tempo, però resta l'impressione di un Inter profondamente diversa da quella della passata stagione. 800-24-00-24 per dirci in diretta che cosa ne pensate, pubblicità meteo. Ecco il caffè. Ma come, pure la tazzina giallorossa? E te credo, così si beve, devi baciare i colori della Roma. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, c'è Garcia ai microfoni di Sky Sport, ma prima salutiamo Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a voi. Roma gode, direi, questo è certamente uno dei titoli di questa domenica. Beh, la Roma gode. Roma gode è un'altra cosa. No, perché... Roma gode nella metà biancoceleste certamente no. Esatto, sì. La Roma intesa come squadra che... e da un po' insomma subiva un dominio per quanto riguarda il derby da parte della Lazio, si è riscattata con questo 2-0 e con una prova che soprattutto nel secondo tempo ha fatto vedere veramente una squadra che può competere persino per qualche traguardo importantissimo. Fin dove può arrivare? Perché ne parlavamo prima anche con i colleghi da Roma, c'è anche il rischio che l'entusiasmo bruci poi le energie soprattutto psicologiche di questa piazza un po' particolare. Io ho la sensazione che questo allenatore abbia le idee chiare, che sia non solo riuscito a stabilire un feeling corretto, e quando intendo corretto cioè basato anche sulla disciplina e su un rapporto di sinergia proprio con la squadra, e poi che noi lo vediamo sia nelle conferenze stampa, sia durante gli allenamenti, sia in qualche piccola diciamo maschera che indossa, ma anche perché diciamo in... a livello strategico nei confronti diciamo della stessa comunicazione assume atteggiamenti che mi sembrano appunto atti a creare un clima diverso all'interno della squadra, e soprattutto in una città difficile e complessa, soprattutto sulla sponda romanista dopo gli ultimi anni deludenti. Quindi io non so dove possa arrivare, però di sicuro sta creando un clima giusto all'interno della società e della squadra. Tanto lo vedo sorridente, non potrebbe essere diversamente ai microfoni di Sky Sport. Adesso proveremo anche a coglierne appena inizia la risposta, anche qualche parola. Mi sembra però sempre con un profilo basso. Sentiamolo, Rudy Garcia. Una forza della squadra intera, non solo del dei centrocampisti o della difesa. Abbiamo 11 giocatori che difendono insieme e questo è lo più importante. Sì, si fa fatica, direttore De Paola, a trovare un leader assoluto, tecnico di questa squadra. Beh, insomma, a me sembra che sia ancora Totti, devo dire sinceramente, è sempre lui il giocatore che ispira le azioni più pericolose, che diciamo è sempre nel vivo dell'azione. Però ecco, rispetto a prima, attorno trova dei compagni e degli interlocutori validi. Oggi è stata impressionante anche la prova di Maicon, per esempio. Sì, da parecchi anni non si vedeva su questi livelli, ma non tanto nelle proiezioni offensive, l'ho visto anche impegnato in qualche recupero difensivo che aveva dimenticato nelle ultime stagioni. Sempre presente in tutte le azioni, anche si fa trovare al posto giusto al momento giusto, ficca sulla fascia fino alla linea di fondo e poi diciamo fa il passaggio al compagno più libero. Insomma, è un allenatore, è un giocatore veramente trasformato. Si è concesso una leziosità solo alla fine, quando voleva fare un sombrero nei pressi dell'area di rigore, però comunque avendo il controllo della situazione, ma per il resto prova eccezionale. E comunque tutta la squadra ha ragione Garcia quando dice che è stata una prova, l'ennesima prova corale dei giocatori, e si muovono. Noi ricordiamo la Roma dell'anno scorso, ma anche di 2 anni fa, che aveva improvvisamente, durante, a parte le amnesie nell'arco della partita, ma negli stessi 90 minuti era sfilacciata, improvvisamente si creavano delle voragini a centrocampo con una difesa che si trovava in posizioni veramente imbarazzanti. Adesso no, è veramente molto compatta in arretramento, compatta nella fase offensiva e anche e soprattutto, questa è la cosa nuova, compatta nel recuperare la palla, cosa che prima non faceva. Sì, Roma e Inter sono due squadre che hanno fatto un cambiamento davvero davvero incredibile rispetto a quelle viste nella passata stagione. Direttore, ti rubo un minuto per farti sentire che cosa è successo oggi a Reggio Emilia. Noi stiamo ricevendo decine di messaggi arrabbiati, anche insultanti, di tifosi dell'Inter. Noi vogliamo ricostruire che cosa è successo, però questo è il mio parere, non possiamo far finta di niente ed eventualmente nemmeno cercare di spiegare che cosa potrebbe accadere. E allora torniamo a Reggio Emilia, a quello che si è sentito, quello che è successo oggi. Direttore, io trovo surreale che tutto questo sia accaduto dopo una settimana in cui ci siamo sforzati un po' tutti di spiegare ai tifosi e agli appassionati che cosa è cambiato nelle regole, i cori sul razzismo, ma anche sulla discriminazione territoriale, quale è insomma quello che abbiamo sentito, le solite storie, colerosi, terremotati, gente che si lava più o meno, eppure ci siamo ricaduti. Che commento possiamo fare? Ma guarda, diciamo, parlo anche da napoletano, sinceramente ormai più si fa, non dico pubblicità, ma più si parla di queste cose e peggio è, perché comunque si dà veramente troppo risalto a qualche imbecille e vogliono fare il corretto per loro è offensivo, va benissimo, insomma non è questo che può fare ormai la differenza. Scusatemi, magari la penso un pochettino in maniera diversa, ma il sottolineare ogni volta, io preferisco l'indifferenza e pensare alle cose, ai dati di fatto che ci sono, diciamo, per quanto riguarda sul campo dello sport, per quanto riguarda cultura, scienza, politica, insomma mi sembra che siano altri i fatti ormai che determinano la differenza tra le persone e non il corretto di qualche ignorante, perché è più di ignorante che possiamo... Sì, direttore, hai ragione, la differenza, e lo abbiamo scoperto questa settimana per chi non se n'era accorto, è che le regole sono cambiate. Questa cosa qui che abbiamo sentito e che io credo sarà andata sul referto di qualcuno degli arbitri o degli ispettori della federazione presenti oggi a Reggio Emilia, se, come dicono alcune testimonianze, cito Repubblica, proveniva dalla curva dell'Inter, porterà a Inter-Roma il 5 ottobre con San Siro vuoto. E dalla prossima occasione per l'Inter, eventualmente dalla terza sanzione, io credo che la gente non l'abbia capito, scatta automaticamente lo 0-3 a tavolino. Ho l'impressione che la gente non lo sappia e quindi si fa anche informazione. Ho l'impressione che queste regole, ma questa è una mia impressione personale, siano un po' troppo rigide, consegnino un po' troppo i club nelle mani di queste frange. Questo però è un mio parere, eh? Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con te. Cioè, bastano pochissimi perché magari si determina una situazione del genere e poi si vada incontro a sanzioni che penalizzano tantissimi. Cioè, siccome poi tantissimi non possono per forza, è una legge naturale, controllare anche minoranze stupide e ignoranti, mi sembra eccessivamente penalizzante, un po' troppo rigida, come dici tu. Questa applicazione io applicherei sempre il buon senso in tutte le situazioni, va bene magari fermarsi alla squalifica della curva, va bene diciamo anche sottolineare certi episodi da un punto di vista di punizioni, ma poi ecco che non siano troppo penalizzati la gran parte dei tifosi e le società. E invece questo accadrà in questa stagione, perché le regole sono cambiate da quest'estate, perché la Federcalcio ha preso per sé tutte le indicazioni dell'UEFA sulla tolleranza zero. e quindi noi l'abbiamo detto già settimana scorsa anticipando cosa sarebbe accaduto alla curva nord dell'Inter, lo ripetiamo oggi, poi bisogna capire se quei cori erano interisti o dei tifosi del Sassuolo. In ogni caso quest'anno per razzismo o cose simili si può incidere anche sui risultati del campo, si può incidere anche sulla classifica. A me non piace, al direttore De Paola non piace, alle decine di persone che mi stanno insultando non piace, però caro direttore queste sono le regole e a me fa piacere anche spiegarle, perché ho l'impressione che non siano conosciute. Hai perfettamente ragione, dico che bisogna fare attenzione perché magari si misurano in decibel certe cose, perché poi lo dice 1, 2, 3, 4, 10, 100 e c'è differenza rispetto a 2000, 3000, 4000. Cioè, io non so, ecco, se c'è una scala di valore in base al numero non e c'è, alla totalità. Non c'è, e la dimostrazione è quello che è successo a San Siro in Inter Juventus, coro praticamente impercettibile, segnalato da un ispettore della Procura Federale, curva chiusa, l'Inter alla fine credo non abbia nemmeno fatto ricorso, ma tanto non sarebbe servito perché non esiste la possibilità di uno sconto, non esistono più le esimenti, non c'è più quella cosa che permetteva fino all'anno scorso di dire che la società ha collaborato, i richiami, i fischi del resto del pubblico, cancellato tutto. Da agosto si passa direttamente alle sanzioni, c'è un tariffario, basta prendere il regolamento, cari tifosi, leggetelo, studiatelo, perché davvero davvero quest'anno vedremo, io credo, anche delle partite decise a tavolino, o cambia qualcosa nelle regole, ma non penso a campionato in corso, oppure questa è la situazione. Grazie direttore. Grazie a te. Grazie a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Intanto stiamo seguendo anche il derby di Manchester con il City che è avanti 1-0 sullo United, quasi finito il primo tempo, siamo all'ultimo minuto, decide sin qui un gol di Aguero al 16° minuto. 800 24 00 24, c'è già Antonio da Napoli che sta aspettando, c'è Ventura credo che sta aspettando di parlare ai microfoni di Sky, Ventura che con il suo Torino e insieme al Livorno a quota 7 è l'unico capace di inserirsi in queste giornate nel dominio delle sette grandi che stanno volando, Milan a parte, in testa alla classifica in queste prime quattro giornate. Sentiamo un passaggio di Ventura. Una base dello scorso anno abbiamo dovuto cambiare per i motivi che si sanno, cioè per caratteristiche di giocatori che non si poteva giocare come lo scorso anno, abbiamo cambiato, ma il filo conduttore è rimasto, c'è la partecipazione di tutti, c'è voglia di fare un calcio propositivo, poi a volte ci riesce, a volte non ci riesce, però c'è voglia di fare calcio, quindi si divertono e sono contento. Perché ecco, quando ho detto al di là delle frasi di circostanza sono felice per loro perché lo meritavano, perché stanno facendo qualcosa di importante, non crei molto contro il Milan subendo poco se non fai una buona partita, non vai a Bergamo a creare 5-6 palle gol pulite subendo quasi niente se non fai una buona partita. Ciao. Non vieni a Bologna a vincere se non fai una buona partita, quindi era giusto che potessero ottenere finalmente qualcosa che meritavano. E questa è la soddisfazione di Ventura, 2-1 a Bologna. Antonio da Napoli è lì? Sì, pronto. Le chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi riparto da lei. Traffico. Ah, mi vogliono ammazzare! Mi fanno bene! Tu sei razziale! Chiuda! Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Antonio da Napoli, allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Prego. Io volevo chiedere solo una cosa, no? A parte che sono arrabbiato nero perché, cioè, io sono un tifoso del Napoli, sono un padre di famiglia, vado sempre allo stadio quando il Napoli gioca, lavoro permettendo, no? Io non capisco perché si parla sempre con i tuoi, se sono stati gli interisti, se non sono stati gli interisti. Cioè, la TV ha fatto vedere chiaramente i cori da dove venivano. Lo stadio era l'80% dei tifosi dell'Inter, no? Io non capisco perché ce l'hanno tutti con noi, cioè tutti, non c'è un posto, cioè solo due o tre zone in Italia, non c'è un posto che non ce l'hanno con noi, io non riesco a capire tutto questo astro, tutto questo pregiudizio verso di noi. Antonio, ha sentito il direttore De Paola? Io mi allineo da questo punto di vista a quello che ha detto De Paola. Non è un problema, perché evidentemente sono cori assurdi questi, come tanti altri che si sentono. A noi interessa oggi spiegare, perché probabilmente la gente non l'ha capito, che cosa è cambiato, e quindi ci sarà, io credo, un referto dove ci sarà scritto da dove provenivano quei cori, e quasi sicuramente domani leggeremo qualcosa nel dispositivo del giudice sportivo. Prego Antonio. Sì, no, io non capisco, cioè, perché tutto quest'altro verso di noi e tutte queste cose, cioè, non lo so, noi, cioè, quando giochiamo in casa, cioè, noi delle altre squadre, a parte un po' della Juve che c'è la rivalità, cioè, ormai fissa, cioè, noi non pensiamo a nessuno, cioè, noi oltre il tifo verso la nostra squadra, noi non pensiamo e non curiamo sì. nessuno, cioè, noi delle altre squadre, cioè, non ci interessa sì. più tanto. Non che Napoli sia una passeggiata di salute per le altre tifoserie, Antonio, questo sì, per onore di cronaca. Cioè, a livello, cioè, di offensivi, di cora, sì. come le cose da noi sono cambiate, cioè, in meglio, ma da parecchio stanno cambiando queste cose. Va bene, grazie Antonio. Ciao. Grazie Antonio. Sì. C'è Petkovic su Sky Sport. Dall'Olimpico inserirsi negli schemi, nel modo di giocare su certi livelli, sicuramente serve ancora un po' di tempo per un talento che si vedrà anche durante quest'anno come Keita. Quindi Petkovic, si può dire in un titolo che la Lazio non meritava di perdere, se secondo lei sentiamo oggi. Il titolo, ma penso che poteva succedere da tutte e due parti. Era importante chi segna per primo, dopo sono successe diverse altre situazioni come Rosso, alla fine anche con giocatori in meno rigore, ma come ho detto, se noi potevamo sfruttare queste occasioni che abbiamo avuto anche inizio primo tempo, sono sicuro che la partita andava in altra direzione. E invece alla fine la partita l'ha vinta la Roma. Saluto Daniele Adani, spalla tecnica di Sky, oggi a Reggio Emilia per Sassuolo Inter. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Proviamo a uscire dalla questione dei cori. Che Inter hai visto? Una Inter devastante, che ha dominato dal primo all'ultimo, che non ha trovato una grande opposizione, ma che migliora di partita in partita sotto il profilo dell'autostima, della convinzione, e migliora anche sotto il profilo del gioco. Quindi diciamo che veramente in poche settimane una squadra che ha invertito la rotta dall'anno scorso, che sembra anche, io credo, divertirsi quando gioca, tanto è vero che ricoinvolge Milito, che rientra e segna subito dopo tanto tempo. Sì, è un Inter che continua però a iniziare le gare con una sola punta, che è Palacio, e con uno schieramento più prudente rispetto a quelli cui Mazzarri ci ha abituato nei suoi anni a Napoli. Secondo te, anche perché in questo momento rientra Milito, quando Mazzarri si fiderà di provare a sbilanciare un po' di più la sua Inter? Allora, innanzitutto bisogna mettere in chiaro che non è dal numero di punte che mette in campo che una squadra è offensiva o meno. Oggi la squadra ha giocato con una punta, Ricky Alvarez, ma ha dominato, ha giocato in una metà campo. È vero che l'avversario era di modesto, diciamo, e ha giocato non bene, però un giocatore come Ricky Alvarez ti dà la possibilità, uscendo, giocando il pallone, gestendo il pallone, di mandare dentro tanti giocatori. Taider ha fatto gol, entra Guarin, arrivano gli esterni, e quindi poi dopo è come poi attacchi lo spazio che libera un eventuale punta o un'eventuale mezza punta. Però io credo che ci saranno partite dove sicuramente vedremo Milito con Palacio, e quindi il 3-5-1-1 potrebbe trasformarsi in 3-5-2. In tal caso sarò curioso di vedere se l'Inter con le due punte possa giocare sia con Ricky Alvarez, da quale in questo momento io credo che questa squadra non possa prescindere, che Guarin, quindi che due mezze ali abbastanza offensive. Di Milito cosa mi dice, al di là della suggestione del ritorno al gol, che poi si è trasformato addirittura in una doppietta, però eravamo nella parte di gara in cui sinceramente i ritmi e soprattutto l'opposizione del Sassuolo era più simile a quella di un'amichevole agostana che di una partita alla quarta giornata di campionato. È uno degli attaccanti più forti d'Europa, che è importante per il presente e per il prossimo futuro dell'Inter, e che sarà un giocatore che nelle gerarchie sarà davanti sia Icardi che a Belfodil, e che un giocatore che grazie alla sua professionalità è rientrato nei tempi giusti ed è rientrato alla grande, aspettando il suo momento, e non a caso soprattutto il primo gol che ha fatto, il movimento è quello di quei giocatori che sanno dove stare al momento giusto e sanno colpire. C'ha il gol nel sangue e questo lo avrà fin quando indosserà gli scarpini da calcio. Aveva detto Mazzarri la vigilia, l'ho visto recuperare rapidità, scioltezza, velocità, però c'è ancora da lavorare e non bisogna mettergli addosso pressione. Io ad esempio non mi stupirei che giovedì contro la Fiorentina Milito tornasse a sedersi in panchina. Ma non vedo il problema, non vedo, diciamo, clamore. È normale che 90 minuti nelle gambe devi aspettare anche un mese per averli, e poi non è detto che ci sia necessità di darglieli, nel senso Milito sarà utile anche un quarto d'ora, 5 minuti, proprio per questa sua capacità di capitalizzare al meglio le occasioni e la conoscenza dei movimenti nell'area di rigore come pochi altri in Europa. Grazie Daniele Adani. Arrivederci. Grazie a Daniele Adani, spalla tecnica di Sky Sport, oggi a Reggio Emilia per Sassuolo-Inter. Intanto finito il primo tempo a Manchester, 2-0 per il City, ha raddoppiato Yaya Touré in tempo di recupero al 47esimo, il primo gol era di Aguero al 16esimo. 800-24-00-24 per le vostre telefonate in diretta. Adesso ci fermiamo per il GR e poi cominciamo ad addentrarci nell'attesa, nella lunga attesa di Milan-Napoli. Che sì, dopo ci vinciamo, sicuro che nel nuovo sito in cinese sale tutta questa notizia che il Napoli sta preparando il sito in cinese. Se qualcuno in Cina può leggerlo facilmente. Tutti convocati. Tutti convocati. 800-24-00-24 per le vostre telefonate. Ci sono Gianmarco d'Arezzo, Bruno da Pavia che aspettano. Io intanto saluto Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao Giovanni. È stata l'ultima di Moratti o no? L'ultima da presidente? Beh, sono l'ultima, la penultima, insomma, siamo lì ormai, si attendono. C'è di mezzo Inter Fiorentina giovedì. E infatti. Sì. Poi l'Inter va a Cagliari. Siamo comunque in attesa delle firme, del CDA che dovrà ratificare il tutto. E con questa volata finale verso l'assemblea entro fine ottobre, che ratificherà un po' i nuovi assetti della società con l'ingresso dei dirigenti di fiducia di Toire, della cordata indonesiana, che prenderanno in mano. Sì, ci sono tempi tecnici che vanno rispettati, perché lo dice il codice, perché a questo punto non è più nemmeno una questione di passioni, di sentimenti. Oggi abbiamo visto Moratti molto soddisfatto a Reggio Emilia, anche secondo me un po' emozionato, anche se sta cercando di mascherare il più possibile quelli che possono essere i suoi sentimenti, però adesso è davvero arrivato il momento di chiudere, di firmare, di fare tutti questi passaggi tecnici. Io credo non sia un caso che settimana scorsa siano usciti un po' tutti allo scoperto. Sì, l'accordo sostanziale tra lui e Toir c'era da alcuni mesi, bisognava però far quadrare tutta una serie di questioni. Questi mesi, questi 4 mesi di trattativa sono stati giocati proprio in questo ambito, no? Con i due studi legali che cercavano di trovare un equilibrio soddisfacente per entrambe le parti. Questo vertice parigino ha permesso, insomma, di arrivare a un accordo. Sì, mi sembra di poter interpretare che alla fine il prezzo dell'Inter sia un po' un allarme anche per il calcio italiano. Alla fine Moratti mette in tasca quasi nulla, considerato che comunque dovrà continuare a staccare o al 100% al 30% degli assegni per ripianare i prossimi bilanci, e l'ultimo bilancio, quello da quasi 70 milioni di rosso. Alla fine, se questo è il valore del terzo club per importanza economica del nostro calcio, c'è da stare poco allegri. Era un club che intanto era sceso come fatturato sotto i 200 milioni, parliamo di 170-180, era un club che perdeva 70-80 milioni all'anno in media, ci sono stati anni in cui ha perso anche 250 milioni, un club forse l'unico italiano che davvero non è in linea con i paletti del fair play finanziario, che va rilanciato, per cui è chiaro che Toir ha fatto anche una scelta che fanno tipicamente i fondi di investimento, cioè investire su società che hanno un potenziale ma che in quel momento vivono il loro momento più nero dal punto di vista economico-finanziario. A Moratti non resterà tanto se non il fatto di essersi liberato di circa 200 milioni di garanzie personali che aveva dato in questi anni per i debiti dell'Inter, però Moratti fa un investimento sul futuro, ha ancora una quota del 30%, entro 2 anni dovrà uscire e quella quota, se l'Inter tornerà in auge, soprattutto se tornerà sul palcoscenico europeo, potrà valere quasi 100 milioni e in quel caso insomma avrà recuperato un minimo rispetto però alla spesa enorme, 1,2 miliardi, che ha fatto in questi 18 anni di presidenza. Siamo in un'altra epoca, lo ha capito anche Moratti, vedremo dove andrà la nuova Inter. Intanto Manchester City 4-0 sul Manchester United, inizio di secondo tempo devastante, dopo Aguero e Yaya Touré nei primi 45 minuti ancora Aguero e poi Nasri, siamo al 52esimo, 4-0 per il Manchester City sul Manchester United. Usiamo la formula dei 140 caratteri, quindi proviamo in un flash a cercare di capire cosa succede. Moratti resta presidente, sì o no? No. Chi rimane dentro la società? Oggi si è parlato sui giornali di Branca, di Ausilio, lasciamo stare il marketing che sono nomi sconosciuti ai più. A me risulta che ci sarà una svolta radicale e che quindi tutti i posti di comando, quelli fondamentali, verranno presi dagli uomini di Toir. Ma siamo insomma ancora in una fase di trattativa su questi nomi, però la linea di indirizzo è un cambio della guardia quasi radicale. Questo insomma accadrà già a partire dalla prossima estate, immagino. Beh no, in realtà già l'assemblea, già l'assemblea di fine ottobre potrebbe permettere l'inserimento di nuovi uomini. Cioè il mercato di gennaio non lo fa Branca? Sicuramente Branca insomma potrebbe non farlo, però ecco, sicuramente ci saranno, voglio dire, direttive chiare dagli uomini di Toir, non sarà un mercato fatto dalla vecchia guardia come quello estivo. Marco D'Arezzo, 800 24 00 24, buonasera Marco. Buonasera a tutti quanti. Prego. Allora, io sarò brevissimo, sono tifoso del Milan, ho vissuto tanti anni gloriosi. Volevo sapere, secondo voi, un parere tecnico, se in questo momento il Milan è una società dove i tifosi sognano vittorie, ma i dirigenti gli può bastare un ingresso in Champions League per ritenere positiva l'annata. Ecco, tutto mi, qua. Mi sembra, Marco, che sia qualche anno che è così, ma Gagliani lo ha detto molto onestamente. Il Milan parte per arrivare almeno quarto, poi è diventato almeno terzo quando abbiamo perso un posto in Champions League, e non gli si può dare torto, perché alla fine, Marco, Gagliani è quello che deve far tornare i conti, e la qualificazione o meno alla Champions League è lo spartiacque fra un disastro economico e una stagione soddisfacente. Esattamente, lo scudetto vinto dal Milan quest'anno è stato portare il bilancio da meno 67 a meno 7 ed essere ancora in Champions League. Credo che anche per il Milan dopo l'Inter insomma potrà forse aprirsi una finestra per cercare nuovi investitori se si vuole restare a certi livelli, una volta che i rubinetti del principale azionista sono stati chiusi, ma questo è da alcuni anni insomma che è accaduto. Bruno da Pavia, buon pomeriggio. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, io premetto, sono un tifoso interista, sì. Premetto che non insulto nessuno, no, però si figuri. Esigo anche un momentino di coerenza nei nostri confronti. Dica. Allora, lei è stato, mi pare, abbastanza preso di mira da alcuni tifosi. Sì, ma non c'è nessun problema, Bruno. No, questo spiace, è sempre spiacevole, però c'è un però. Voi giornalisti solitamente tirate la volata anche a certe idiozie. Per esempio, quei cori che avete fatto sentire, non si capisce da che parte provengono e da che parte vanno. E l'abbiamo detto, no, dove vanno si capisce benissimo, da dove provengono può esserci qualche dubbio, e insomma, lo abbiamo detto. Sì, anche perché è facile, in uno stadio piccolo come quello di Reggio Emilia, indirizzare, cioè confondere le idee. Sì, se però Bruno, no, ma poi la faccio, si figuri, la faccio sicuramente proseguire. Mi sembra però che non riusciamo a centrare il punto. Noi non facciamo sentire i cori perché ce li abbiamo con gli interisti o con i tifosi del Sassuolo, o vogliamo dare pubblicità a gente che evidentemente di pubblicità non ne ha bisogno. Noi stiamo cercando di spiegarvi per la seconda settimana consecutiva che sono cambiate le regole. Se quei cori provengono dalla curva dell'Inter, se quei cori provengono dalla curva dell'Inter, ci sono alcune testimonianze che lo dicono, le ho citate. 800 24 00 24, se eravate a Reggio Emilia chiamatevi e raccontatemi com'è andata secondo voi. Ma se quei cori venivano dalla curva dell'Inter, caro Bruno, scatta automaticamente la chiusura di San Siro e l'Inter finisce sotto una spada di Damocle pesantissima, che è alla terza sanzione di questo genere, lo 0-3 a tavolino. Io questo ve lo dico e spero che venga capito, anche se ve la prendete. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, poi però riparto da lei, Bruno. Traffico. La famiglia Moratti, la famiglia, cioè l'Inter, come Juventus Agnelli. Fa un po' impressione, sinceramente viene anche un po' di magone, no? Tutti convocati. Bruno da Pavia, chiudere. Bruno, prego. Sono qua. Sì, ha ragione, dottore, condivido. Allora, quattro idioti però non possono, messi lì magari apposta per vendicarsi di una partita andata male, non possono influenzare negativamente un'altra squadra. Lei ha ragione, Bruno, ma sono le regole. Prego. Non so che sono le regole, non lo sanno gli idioti, evidentemente ha ragione. Guardi, io sabato pomeriggio ero a San Siro, non abbiamo sentito assolutamente nessun coro, l'ha detto anche lei nella sua trasmissione, certo. È vero, abbiamo sentito dei fischi, e il che io ho detto con chi avevo vicino a me allo stadio, ho detto sta a vedere che adesso ci colpiscono anche per i fischi. Infatti questo regolarmente è stato fatto, perché Moratti si processa sempre, perché Moratti sia che vende che o non vende viene sempre processato. Guardi, con il suo interlocutore, adesso mi sfugge il nome. Sì, Marco Bellinazzo, poi la devo salutare però, Bruno. Senz'altro. Ha detto che l'Inter è l'unico che non osserva il fair play. L'ha osservato Lotito, che ha trovato un politico che gli ha spalmato i debiti per 20 anni. Adesso facciamo rispondere a Marco Bellinazzo. Bruno, io la ringrazio, però volevo andare prima, poi risponde Marco Bellinazzo, andare sulla lunga vigilia di Milan-Napoli. Aldo Serena, ciao, buonasera, ciao Aldo. Ciao, buonasera a tutti voi. Che partita ti aspetti questa sera? Mi aspetto un Napoli che è deciso, un Napoli che cerca i tre punti, ha costruito già qualcosa di importante, De Laurentiis, acquistando anche Benitez, veramente una azzeccata scelta. Il Milan non ha ancora trovato, secondo me, quell'equilibrio fra fase difensiva e fase offensiva, a volte quando va in avanti si sbilancia un po' troppo, e quindi Allegri deve lavorare ancora. Sì, Guaino Balotelli, che è il grande duello di questa sera, uno dei grandi duelli, di sicuro quello più pubblicizzato oggi. Guaino Balotelli, chi preferisci? Guaino come bomber sicuramente sì, ma penso che Balotelli abbia dei margini di miglioramento enormi, è un giocatore che ha tutto, io penso e spero che per anche la nostra nazionale lui riesca ad esprimere tutto il suo enorme potenziale. Sì, io oggi però sceglierei Higuaín tutta la vita. Marco Bellinazzo, grande tifoso del Napoli. Beh, in questo senso devo autodichiararlo, quindi le mie affermazioni sono solamente parziali. Assolutamente Higuaín mi ha sorpreso. Da orfano di Cavani temevo molto peggio. Invece anche, al di là di tutto, anche per lo spirito di sacrificio che dimostra in campo, che è più oscuro magari di quello di Cavani, che ogni tanto vedevi nell'area di rigore a rincorrere gli attaccanti avversari. Higuaín fa un lavoro diverso, ma anche di grande sacrificio per la squadra. Aldo, per chiudere, che la Juventus sia la grande avversaria e viceversa del Napoli nella lotta a scudetto, credo fosse abbastanza chiaro e banale anche da dire già dalla vigilia di questo campionato. So che tu oggi sei stato a Roma, vorrei capire che valutazione dai invece della Roma, che questa sera in questo momento è solo in testa alla classifica con 12 punti. È una Roma quadrata, una Roma che non subisce quasi mai tiri in porta, nella fase difensiva ha fatto un grande lavoro, non è spettacolare davanti quando gioca con Florenzi e non con gli Aici, però devo dire che ha un Totti sublime, quasi da questi anni, oggi con 27-28 gradi, un clima veramente torrido, è riuscito a fare partita la partita ad altissimi livelli. Sì, rinnovo più che meritato anche alle cifre che ha strappato, che sono tutt'altro che cifre da 37enne, siamo oltre i 3 milioni netti a stagione ancora fino al 2016, ma Totti continua a essere un fattore in questa Roma. Grazie ad Aldo Serena. ciao a tutti voi. Ciao Aldo, grazie, buon viaggio di ritorno da Roma. Marco Bellinazzo, proviamo ad entrare nel clima di queste ore che ci separano a Milan-Napoli, perché è stata una vigilia particolare, è stata, mi è sembrata, una vigilia molto serena quella di Benitez. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Guardo la mia squadra, parlo un po' con questa sera difficile adesso, parlo un po' con l'almohada. Almohada, che cos'è un'almohada? Chi parla spagnolo qua? Cuscino, buono. Parlo con il cuscino dopo la notte e decido per la partita domani. Chissà cosa avrà deciso Benitez, lo scopriamo fra un paio di ore. Vigilia un po' più agitata, quella di Allegri, che se perde va a meno 8 da Napoli e Roma, posizione scomodissima. Balotelli è il primo anno che gioca da protagonista in una squadra titolare sempre, quindi anche lui deve crescere sia sotto l'aspetto tecnico-tattico con la squadra, sia sotto l'aspetto mentale, perché conta giocare mezz'ora, un'ora e non avere la responsabilità di essere il protagonista assoluto della propria squadra. Un conto è quando ogni tre giorni deve essere in campo e dimostrare che sia più bravo. Sembra, Marco, che si giochi molto di più il Milan questa sera del Napoli, cui due risultati su tre vanno bene, ma in fondo anche se perdesse sarebbe lì a un punto dalla Juventus, che è la vera protagonista, io credo, di questo duello che porterà il campionato italiano fino a maggio. Assolutamente, per il discorso che facevamo prima e per l'importanza, no, che ha restare in zona Champions. C'è la Roma che sta sorprendendo tutti, l'Inter che sicuramente è rinata, c'è il Napoli, c'è la Juve, con restare fuori l'anno prossimo da quei tre posti significa davvero scivolare troppo indietro, non solo nel panorama europeo ma anche quello italiano, per cui è una partita importante soprattutto per il Milan. È chiaro però che il Milan in questi anni ci ha abituato poi a una fase di ritorno del campionato stupefacente, perché è riuscito sempre poi a tornare in alto. Partire così con questi handicap, quest'anno potrebbe essere più duro, perché ci sono, diciamo, più squadre che possono contendere le piazze importanti. Diamo la risposta su Lotito e la Lazio, debito spalmato in 23 anni. Guarda, se non sbaglio, non si può, in Italia si ha questa tendenza a voler cancellare un problema con un altro problema. Lo scandalo di quella rateizzazione di oltre 25 anni all'epoca è stata denunciata, però d'altro canto Lotito, quando gli si fa notare, ha sempre risposto che è vero che ha avuto questa agevolazione, ma in ogni caso la Lazio paga ogni anno 5-6 milioni di imposte, e comunque quei soldi la Lazio li sta pagando, e la Lazio in questi anni comunque è stata a buon livello, mantenendo un equilibrio di bilancio che purtroppo l'Inter non ha avuto, e per quello che se andiamo a guardare i parametri del fair play finanziario, l'Inter non è sicuramente in linea, ed è la squadra messa peggio dal punto di vista dei club italiani. Sì, sulla rateizzazione tu hai dato il giudizio, però va sottolineato che non c'entra nulla con i parametri del fair play finanziario. Da questo punto di vista, a parte tutto, la Lazio è in linea con i suoi bilanci. Anche qui può piacere o non piacere, però è così. 800 24 00 24, Armando da Modena, buonasera, era allo stadio di Reggio Emilia, prego. Buonasera, allora io in pratica, da premettere, sono un tifoso del Napoli. Sì. Era allo stadio per vedere una partita di cartello, diciamo, della zona. Allora, il coro è partito dalla curva dell'Inter, però sì, diciamo che era uno stadio al 70% di tifosi interisti. Però non è un coro di fede calcistico, quello è un coro discriminatorio di nord contro sud. Sì, diciamo che i tifosi del Sassuolo non è che si sono fatti pregare due volte per partecipare anche loro a quel coro. Quindi diciamo che è stato qualcosa che alla fine, secondo la sua testimonianza, va oltre il calcio, ma soprattutto potrebbe aver interessato, diciamo, entrambe le tifoserie. Vediamo, domani scopriremo che cosa c'è scritto nei vari referti, Marco. Infatti non sarei tanto sicuro di trovarlo scritto nei referti, proprio perché le sanzioni sono così pesanti e automatiche. E magari a qualcuno potrebbe essere sfuggito, mettiamola così. Immagino di no, e spero di no. Secondo me era molto più semplice farsi sfuggire i cori, quelli davvero quasi invisibili di sabato scorso a San Giovanni, Siro, in mezzo a 70 e passa mila persone. Sappiamo, noi lo stiamo raccontando, tu lo stai facendo molto bene, che sono cambiate le regole, c'è un'attenzione particolare in Europa, nella UEFA e quindi anche in Italia, per cui queste sanzioni le vogliamo discutere. Anche dal mio punto di vista l'automatismo rende i club prigionieri dei tifosi, se così li vogliamo definire, ma non sono evidentemente tifosi, così come qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. Però questo è il sistema del diritto sportivo e i club dovranno adeguarsi cercando il più possibile di isolare queste frange. 800 24 00 24, Roberto da Milano, buonasera. Buonasera Giovanni Coppano. Prego. Volevo chiedere su riguardo al Milan. Sì. Se nel caso, speriamo di no, dovesse perdere, no? Cosa potrebbe cambiare nel futuro societario, oppure riguardo anche Allegri? Ci sarà sempre ancora la solita cosa che se resterà o non resterà, insomma, che poi lui alla fine non c'entrerà niente, però ahimè è la società sempre che poi decide, e quindi ecco. Io non credo, Roberto, se Allegri non è stato mandato via un anno fa e all'ottava giornata era praticamente un allenatore esonerato, lo ha raccontato dopo, io credo con sincerità, Galliani, se non è stato mandato via l'anno scorso certamente non sarà un'eventuale partenza falsa in questo campionato a decidere un suo esonero. Certo è che Allegri è un allenatore a termine, il suo termine è il finale della stagione, mi sembra che l'epilogo sia abbastanza chiaro, sia già scritto. Ad Allegri non è stato concesso il rinnovo di contratto con prolungamento, quindi va in scadenza. Quindi a marzo la Federcalcio si troverà a scegliere il successore di Prandelli. Gagliani un paio di settimane fa ha detto: in ogni caso il Milan parlerà di rinnovi, allenatore compreso, soltanto a stagione terminata. Mi dica lei se Allegri può permettersi di aspettare giugno per sapere se fa parte o no del futuro del Milan. La mia risposta è no, e quindi credo che questo finale sia già scritto. Grazie Roberto. 800 24 00 24, ancora 4-0 del City sullo United nel derby di Manchester. Ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo. State assistendo in diretta alla firma del contratto di Francesco Totti. Non c'è inchiostro. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siete voi giornalisti colpevoli nel dare risalto agli imbecilli, gli istigate a essere ancora più imbecilli. Già Giacomo credo sia la firma di questo sms al 349-238-6666. No, noi facciamo cronaca e da questo punto di vista facciamo informazione, io mi assumo la responsabilità di quello che è stato detto in questa trasmissione. Roberto da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo soltanto intervenire in riguardo al discorso della realizzazione del debito di Lotito, sì, della Lazio, che Lotito non ha fatto altro che adibire a quella che è una normativa dell'Agenzia delle Entrate della realizzazione del debito, quindi non c'è nulla di strano e di anomalo, anzi è stato fin troppo corretto nel mantenere comunque i bilanci in regola e applicato sostanzialmente una normativa che prevedeva la realizzazione di questi debiti per 23 anni. Quindi sì, magari io credo Roberto sia la quantità intanto del debito che lascia un pochino perplesso. Ma certamente Roberto, lo titolo l'ha fatto perché poteva farlo, non è stata creata una norma ad hoc per lui. In tanti hanno sottolineato che esistono disparità di trattamenti magari tra una società di calcio e una società che produce bulloni e che potrebbe trovarsi, io non credo, nella stessa situazione fiscale della Lazio o di altri club italiani, ma in Spagna il problema è ancora più grave, Marco. Assolutamente, stiamo sottolineando quella che è stata una gestione particolare legata a quel debito della Lazio, a una fase storica in cui tante, troppe squadre italiane avevano vissuto al di sopra delle proprie possibilità, tante sono fallite. La Lazio, grazie a quel tipo di accordo che ha fatto con l'Agenzia delle Entrate, ovviamente non è stato fatto nulla in violazione delle leggi, ci mancherebbe altro, però ha potuto continuare a giocare in Serie A pagando, ripeto, un debito, pagandolo ogni anno regolarmente, mantenendo i bilanci in utile, tant'è vero che la Lazio è assolutamente in linea con il fair play finanziario. È chiaro che in quel momento, dal punto di vista delle altre squadre, le squadre fallite, fu denunciato un trattamento di favore nei confronti della Lazio, e se pensiamo oggi alle difficoltà che hanno tante imprese a vedersi riconoscere un trattamento morbido da parte del fisco, ci rendiamo conto dell'eccezionalità di quella procedura. Detto questo, non c'è nessuna valutazione negativa nei confronti di quello che è accaduto, però non si può non rimarcare un tipo di rateizzazione per una squadra di calcio per 125 milioni, e tant'è vero che non ce ne sono più state, insomma. Sì. Enrico da Cremona, buonasera. Buonasera. Prego. Ascolti, prima venendo a casa in auto ho sentito che la decisione della Federal Calcio, no, della FIGC, di punire i cori di razzisti, no, di qualsiasi tipo essi siano, inciderebbe addirittura anche sui eventuali risultati. Sì. Beh, qui la FIGC non ha tratto, allora ha già creato dei problemi grossissimi dopo Calciopoli, e mi creda, sono convinto che a febbraio, marzo, quando ci sarà la sentenza, scusi, sono un po' raffreddato, del TAR, ne vedremo delle belle. Sì, la vertenza tra la Juventus e la Federcalcio. Vada Enrico, dai, è convinto e poi? No, lì sono convinto perché chi rilegge questa sentenza... Sì, ma ne parleremo, mi permetta, e lo faremo senza nessun problema, però a febbraio, perché sennò adesso apriamo un dibattito che in questo momento non ha elementi nuovi. Invece mi interessa che cosa ne pensa sulla questione dei cori e di come cambieranno, perché così è scritto nelle regole, anche i risultati del campo. Prego. Allora si viene a incidere, diciamo, veramente sulla regolarità del campionato, perché... non riesco a capire, diciamo, come si possa capire se un paio di tifosi di una squadra, paventandosi tifosi di un'altra squadra, non possono incidere direttamente loro sui risultati. Enrico, le rispondo, si fa come si faceva fino all'anno scorso, la differenza è che l'anno scorso poi scattavano una serie di attenuanti, di esimenti per i club, e quindi di diffida in diffida ci si trascinava tra multe sempre più salate, e poi si arrivava alla 38esima per vedere una squalifica, quella della curva sud della Roma. Quest'anno tutto questo sistema è stato cancellato, e quindi si parte direttamente dalla sanzione minima, che è la chiusura del settore, e ci sono cadute Lazio e Inter, poi la chiusura dello stadio, poi lo 0-3 a tavolino, poi le penalizzazioni, e poi si va avanti. Vi invito a cercare informazioni su internet, non in tanti le hanno scritte, però questo è il nuovo regolamento, e da qui bisogna passare, non si può fare un ragionamento diverso. A me non piace, a Marco Bellinazzo non piace, al direttore del Corriere dello Sport non piace, però almeno fino a giugno queste sono le regole, e non cambieranno. Grazie comunque. 800 24 00 24, sulla vigilia ancora di Milan-Napoli sentiamo Benitez. La cosa per me è importante trasmettere che se vinciamo ancora dobbiamo essere con i piedi a terra, o per terra o a terra? Per terra. E se non vinciamo qualcuno dirà no, ma non è così forte, ma ancora siamo all'inizio, ho detto 72%, mi sembra che la squadra ha margine per migliorare. Meraviglioso Benitez, Dai, pronostico secco, Marco Bellinazzo, il Napoli al 72%. Guarda, contro un Milan un po' a pezzi. Posso dire questo, negli ultimi anni ho visto tutte le partite di Milan-Napoli, sono state sempre brutte partite, cariche di tensione, c'era l'esigenza del risultato, e quindi lo spettacolo è stato scarso. Spero e sono sicuro, anzi, che stasera ci sarà un grande spettacolo. perché il Napoli è cambiato, perché ha un'autorevolezza in campo che prima non aveva, è un merito di Benitez, perché il Milan è pericolosissimo nonostante insomma non sembri in ottima salute, quindi mi auguro di vedere una bella partita finalmente tra due squadre che sono e dovranno essere, spero, protagonisti anche in Europa. Grazie Marco Belinazzo che va a San Siro. Ciao Marco. Ciao Giovanni. E io saluto invece Dino Meneghin. Ciao Dino, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ho visto che eri in Slovenia, proviamo a fare un bilancio di questo europeo, iniziato benissimo per la nostra nazionale, finito con una grande delusione perché l'ottavo posto non vale nemmeno il pass mondiale per l'anno prossimo in Spagna. Lasciamo stare un attimo i discorsi sulle wild card possibili che la federazione proverà a comprare, proviamo a fare il bilancio tecnico di questa spedizione. Guarda, come sempre si guarda sempre il risultato finale come giusto e da lì si tirano un po' le somme, però io non voglio dimenticare da dove eravamo partiti, cioè quali erano i presupposti per questo europeo, e quindi tutti quanti non pensavamo che la nazionale potesse arrivare così in alto, onestamente essere nelle prime 8 dei campionati europei è sicuramente un buonissimo traguardo. Resta chiaramente un po' l'amarezza in bocca e sono nella testa, nel cuore dei giocatori, degli allenatori, dello staff, perché hanno lavorato benissimo e molto pesantemente per tutta l'estate e alla fine forse meritavano di raccogliere un po' di più di quanto hanno raccolto fino adesso. Cos'è mancato alla fine? Solo una questione di gambe che sono venute meno, lo abbiamo detto nel corso di queste settimane, l'Italia aveva rotazioni molto più limitate rispetto a tutte le altre avversarie e molto spesso lo abbiamo visto, lo ha pagato con dei veri e propri blackout qua e là nella partita a seconda di come Simone Pianigiani provava a tirare la coperta. Beh sì, in effetti sai, si sono giocate tantissime partite, il basket europeo è un basket molto fisico, molto duro, si gioca ogni giorno, quindi devi essere pronto a recuperare. Da noi sono mancati sicuramente nel momento, abbiamo avuto dei blackout purtroppo nelle ultime partite, proprio dei 4-5 minuti dove non si segnava e quindi lì dopo diventa difficilissimo recuperare. Percentuali al tiro sicuramente non buone per questo tipo di livello di gioco, e quindi alla fine paghi. La stanchezza sicuramente è in alcuni tratti abbastanza determinante, soprattutto nelle ultime partite. Resta, come abbiamo detto prima, l'amaro in bocca, ma grande soddisfazione per quanto hanno dimostrato questi giocatori. E non parlo di attaccamento alla maglia, quello che è scontato, parlo proprio di entusiasmo che hanno creato tra tutti i tifosi, proprio per il loro modo di giocare, di interpretare le partite e quant'altro. Con gli assenti quale sarebbe stato il valore di questa squadra? È una domanda lecita da farsi, non toglie nulla a quelli che in Slovenia sono andati, ci hanno anche riempito d'orgoglio per il modo con cui hanno lottato, hanno anche fatto un buon basket, alcune partite perfette, era quello che serviva, visti i problemi con cui siamo partiti, però noi possiamo farcela questa domanda, quanto vagliamo con quelli che non c'erano? Ma sai, parlare degli assenti dopo è sempre una sberla che dai a chi c'è andato, perché come hai detto tu giustamente, chi si è sacrificato l'estate e che ha giocato questi europei merita il massimo rispetto, quindi parlare degli assenti è sempre è molto brutto e irrispettoso nei confronti dei nostri titolari di questa edizione. Quindi sicuramente i giocatori come Bargnani, Gallinari, eccetera, eccetera, avrebbero dato un grosso contributo perché sono giocatori di assoluto valore, però manca sempre la controprova. Sì, io credo però, Dino, che sarebbe un peccato se la federazione non riuscisse a ottenere questa wild card per il mondiale spagnolo, perché tra un anno si spera di avere meno infortuni e a me piacerebbe vederla questa generazione ritornare a confrontarsi con grandi avversari su un grande palcoscenico con una squadra, tu non lo dici, provo a dirlo io, che certamente può valere un podio europeo e quindi un mondiale da giocare, se non da protagonista, in seconda fila. Ma guarda, la questione della wild card è molto complessa perché noi l'abbiamo già usata due edizioni fa nel 2006 per i mondiali di Tokyo. Adesso ci sono molte squadre che lo richiederanno perché c'è la Cina, ci sono solo quattro posti, quattro wild card. C'è la Cina, c'è il Brasile, c'è la... Sì, c'è un paio potrebbero essere quelle europee, però anche qui abbiamo degli avversari. Sì, sì, sì, per cui non è solo un fatto poi di una questione economica, molto importante sicuramente, ma anche un fatto di politica sportiva. Quindi io spero ardentemente che in FIBA recepiscano il discorso della potenzialità dell'Italia, visti i risultati adesso, siamo arrivati ottavi qui agli europei, quindi abbiamo, tra virgolette, un certo diritto sportivo. E poi anche una squadra che potenzialmente, come hai detto tu prima, potrebbe dare veramente grandi soddisfazioni e spettacolo. Pensando poi che l'Italia porta sempre grandi, tanti tifosi. Sì, poi la Spagna è dietro l'angolo, per cui potrebbe essere un affare per tutti. Dino. Grazie a voi. Grazie a Dino Meneghino, 800 24 00 24. Ci sono Stefano da Firenze e Stefano da Como. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto gol di Rooney, 4-1 per il City nel derby di Manchester. Siamo nelle battute finali. Stefano da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Molto, molto volentieri. Volevo dire la mia sui cori razzisti. Dica. Io sono d'accordo con le nuove norme. Quello che succede, succede, non mi interessa. Sono d'accordo con le nuove norme e sono d'accordissimo che siano così dure. L'altra cosa invece volevo dirvi che purtroppo oggi in tutta la trasmissione non avete, sarà stato una coincidenza, mai parlato della Fiorentina, ma nemmeno citata. Ha ragione, ne faccio ammenda. No, vabbè, è sempre lassù. Siamo stati travolti dagli eventi, però ha ragione, la Fiorentina è lassù, 10 punti e merita. La terza cosa è quando giustamente vi siete messi a parlare dei bilanci del Milan, che è stato in Champions e tutto, oramai che c'eravate potevate dire che l'anno scorso il Milan è andato visibilmente in Coppa dei Campioni con almeno 10-12 punti regalati. Sì, però Stefano, adesso 10-12, 15-20 punti regalati, io non lo so, lo abbiamo detto altre volte che il finale dell'anno scorso lascia un'eredità di veleni, perché certamente non tutto è filato liscio, quindi lo abbiamo detto, poi possiamo anche voltare pagina. Stefano da Como, buonasera. Buonasera, prego. Anch'io un rapidissimo commento sulle nuove norme antirazzismo. A mio parere assolutamente inutili, finché si va avanti col principio di colpire la massa, punire la massa per poi colpire i delitti dei singoli, cioè del tutto inutile, non miglioreremo la situazione di nulla. Diciamo, siamo nel 2013, non ci serve la tecnologia di Star Trek però, per Stefano, beccare il singolo deficiente, il singolo 10, 100 deficienti di turno, beccarli singolarmente e buttarli fuori dagli stadi a vita. Però ci abbiamo provato, Stefano, evidentemente non ci siamo ancora riusciti. Grazie comunque. Parliamo di Formula 1, siamo in chiusura. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buonasera direttore. Buonasera a tutti. 60 punti, 6 gran premi alla fine della stagione, titolo mondiale chiuso oppure sfugge qualcosa? Assolutamente chiuso, cioè lui potrebbe permettersi di arrivare sempre terzo e una volta secondo, sempre con Alonso campione, vincitore della gara, e restare campione del mondo. Quindi credo che se la Red Bull dovesse continuare a non rompersi, o perlomeno se dovesse continuare a rompersi soltanto la Red Bull sbagliata, il mondiale sia necessariamente chiuso. Sì, perché poi quello che vediamo, esatto, che abbiamo visto anche oggi, è un dominio totale, è un dominio totale in qualifica, dove si è permesso di ridere agli avversari non scendendo in pista con il secondo treno di gomme tenere, e il ridente in gara, che ha fatto quello che ha voluto, perché ci sono bastati 5-6 giri per prendere un vantaggio enorme su Rosberg prima e poi su Alonso dopo la safety car. Quindi una cosa incredibile questa Red Bull, ma incredibile anche Vettel, perché va riconosciuto del merito anche a lui. Sì, a me è piaciuto molto anche Alonso oggi, a partire dallo start, dal settimo al terzo posto, poi la strategia del muretto che questa volta ha funzionato, mi è sembrato dignitoso nella resa. Lo spagnolo evidentemente vuole sottolineare in tutti i modi di essere meglio della Ferrari che guida. Questo è il modo migliore per chiudere un campionato dove le chance di vittoria sono ormai finite, chiuderlo con onore, chiuderlo stando sempre lì, in caso dovesse capitare qualcosa a quello davanti, essere pronti a vincere la gara. Lui è stato straordinario in partenza, perché sono quelle partenze che vanno poi proiettate nelle scuole di guida veloce, perché così si parte veramente, partono soltanto i campionissimi, ed è stato molto bravo poi nel gestire le gomme dopo la scelta azzardata, ma forse l'unica strada per riuscire a saltare Rosberg, che invece ha fatto una scelta di gomme diverse. Quindi il secondo posto è il massimo a cui questa Ferrari purtroppo in questo momento può arrivare, sono tre gare che Alonso si piazza secondo. Paga qualcosa in qualifica dove magari non morde come poi fa in gara, però credo che anche partendo molto più avanti in qualifica non potrebbe poi cambiare il risultato finale della gara. Potremmo vederlo in testa, perché Alonso parte molto meglio di Vettel. Quindi, però poi la Red Bull è nettamente superiore. Sì, intrigante il podio, perché dietro a Vettel e Alonso c'è Raikkonen. Sul podio sono finiti quindi i due ferraristi del futuro, il che secondo me apre comunque il ragionamento, il discorso su quella che sarà una convivenza che io reputo difficile l'anno prossimo in Ferrari. Ho letto con interesse anche l'intervista di Montezemolo alla Gazzetta dello Sport, lui si dice sicuro di aver fatto la scelta giusta, ovviamente attendiamo la controprova, di sicuro saranno due galli in un pollaio. È sicuramente una scelta azzardata anche questa, una scelta pericolosa, perché io nel mio commento avevo scritto come maneggiare un'ampolla di nitroglicerina. Sono due piloti ad altissimo possibilità di coppia che scoppia, insomma. Però per cercare di aggredire la Red Bull bisogna avere una squadra a due punte, e purtroppo i giovani di oggi in Formula 1 non sono così promettenti, almeno quello che abbiamo visto finora non ci ha lasciato meravigliati. L'anno scorso ad esempio Perez aveva dimostrato di essere un pilota che meritava una chance, ha avuto la chance, quest'anno la McLaren mi sembra che stia fallendo rispetto a Button. L'ha sicuramente sfruttata male questa chance. Abbiamo visto la Red Bull che ha ingaggiato Ricciardo, abbiamo visto cosa ha combinato oggi Ricciardo a Singapore. C'è Hülkenberg, ecco, il pilota che mi piacerebbe vedere su una macchina vera è Hülkenberg. Però la Ferrari ha preferito andare a scegliere un pilota che conosce comunque bene, di cui sa i limiti, sa però anche il potenziale. Raikkonen oggi è sicuramente un pilota veloce, lo ha dimostrato anche oggi, pur con il mal di schiena che aveva, è partito dodicesimo, sì, ed è arrivato sul terzo podio, ha chiuso sul podio facendo la scelta di gomme intelligente come quella della Ferrari di Alonso. Certo, sul podio, come dici tu, potrebbero anche esserci il ferrarista di oggi e due dei ferraristi di domani, perché prima o poi io credo che prima o poi Vettel arriverà alla Ferrari, arriverà, è scritto nel destino. Grazie direttore. Grazie a voi, buona serata. Grazie ad Umberto Zappelloni, ci fermiamo qui. Notizie dalla pancia di San Siro, gioca Birsa con Matri e Balotelli, questa è l'ultima voce che arriva in questa vigilia di Milan-Napoli. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, anima di questa trasmissione, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte che si sono alternati nella parte tecnica. Un saluto da Giovanni Capuano, appuntamento domani alle 14 con Carlo Genta, tutti convocati.